Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Mattino. Ed eccoci di nuovo alle 8:18, care ascoltatrici e cari ascoltatori, la seconda parte di 24 mattino, è venerdì 24 luglio, la parte dedicata alla rassegna stampa in quest'ultima puntata della stagione. Ci chiede qualcuno chi ci sarà la prossima settimana, nelle prossime settimane. La prossima settimana sicuramente Giulia Crivelli a condurre la rassegna stampa. E poi si alterneranno dei colleghi, ritorna la nostra classica trasmissione di informazione, di analisi, approfondimento estiva, ma cos'è quest'estate? I primi giorni ci sarà Laura Bettini a condurre. E noi appunto ritorniamo il 31 di agosto, lunedì 31 agosto, con tante questioni sul piatto, delle quali certamente le prime sono quelle economiche. Ne abbiamo parlato poco fa, abbiamo parlato di cassa integrazione, abbiamo parlato delle difficoltà economiche delle famiglie e non solamente delle famiglie, delle situazioni di marginalità e di come spendere questi fondi europei che arriveranno, chi se ne occuperà. Quanto i partiti vogliono metterci le mani. Inteso ovviamente non per il partito stesso, ma per il proprio elettorato, per creare consenso. E alla questione dei fondi europei, del Recovery Fund, sono dedicate molte aperture dei giornali di oggi, con varie gradazioni. Il Sole 24 Ore apre sul ministro Gualtieri, il quale dice: senza MES, senza il fondo salva stati, ci saranno tensioni di cassa e quindi tensioni sul bilancio dello Stato. A testimonianza di una pressione che inizia ad arrivare dal Partito Democratico, genericamente dal Partito Democratico, per l'utilizzo del fondo salva stati. Il Corriere della Sera descrive un presidente del Consiglio Conte assediato sui fondi europei perché Forza Italia e parte del PD chiedono una bicamerale. Intanto i 5 Stelle votano con la Lega il no al MES al Parlamento europeo. La Stampa intervista Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea. L'Italia rispetti i patti e spenda bene. La Repubblica intervista il commissario europeo agli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, il quale anche lui spinge sull'utilizzo del fondo salva stati. Ora il MES, dopo i fondi UE. Saranno erogati solo tra un anno, il prestito invece, dice Gentiloni, è disponibile subito. Anche il Messaggero si dedica all'Europa e all'Italia. L'Europa all'Italia. Aiutate il Sud. Nel documento finale del Consiglio previsti almeno 70 miliardi per colmare gli squilibri territoriali. Libero e La Verità aprono invece, se vogliamo, un po' sullo stesso tema, anche se con accenti e composizioni diverse. Largo ai vecchi e alle donne, il titolo di Libero. Più anziani sono al lavoro, più la società è ricca. In Italia gli ultra 65 anni spendono più della media nazionale e a orientare i consumi sono soprattutto le signore. La Verità invece parla di un piano per l'assalto alle pensioni. Partono gli allarmi su quota 100 perché metterebbe a rischio le finanze, ma l'obiettivo è l'intero comparto previdenziale, oggetto da anni delle raccomandazioni dell'Unione Europea. Il Fatto Quotidiano e Il Giornale si dedicano a Silvio Berlusconi. Il Fatto Quotidiano con il memoriale del boss Graviano. Con noi Berlusconi guadagnò miliardi, poi ci fece arrestare. Questo il memoriale del boss Graviano. Il Giornale ci racconta irregolare l'udienza che condannò Berlusconi. I giudici si registravano di nascosto ma sorvolarono sull'illegalità per non rallentare i tempi del processo. Infine, Avvenire, sempre sul tema economico, sulla situazione di difficoltà che vivono le famiglie. Lavoro con il virus, le storie di chi da commerciante si è ritrovato senza nulla e pieno di debiti in fila per poter mangiare. 600.000 posti persi nel primo quadrimestre. Infine, Il Manifesto, che dedica l'apertura alla vicenda della caserma di Piacenza. E il titolo è, come sempre, un gioco di parole: compiacenza sui vertici dell'arma, su coloro che si sospetta abbiano ignorato o voltato la testa dall'altra parte. Iniziamo proprio da qua, poi verremo all'aspetto più strettamente politico della vicenda, ne parleremo con Paolo Mieli e poi alle 8:20 con Maria Latella avremo ospite il sottosegretario alla difesa Tofaro per capire un po' anche come si sta muovendo il Ministero della Difesa su questo fronte. E ancora una volta mi pare che anche oggi il giornale più completo su questo fronte è La Repubblica, che torna a dedicare 3 pagine, tra queste anche un commento di Roberto Saviano che parla dei criminali in divisa e l'ombra dei clan. Ovviamente, come stiamo dicendo continuamente in questi giorni, è tutto da accertare, nel senso che al momento quelle che abbiamo sono solamente le carte dell'accusa. Bisognerà vedere poi che cosa si riuscirà a portare in giudizio. Certo è che i racconti, le intercettazioni, anche tutta una serie di prove, di dettagli documentali lasciano intendere che molta sostanza ci sia in questa accusa. Però ovviamente finché non si arriva in giudizio tutto questo non potrà essere definitivamente provato. Detto ciò, ripeto, le accuse sono notevoli, impressionanti. Repubblica ci comunica che a Piacenza, dove, lo ricordiamo ancora una volta perché la storia è di ieri e chi si fosse perso qualche pezzo, sono stati arrestati 6 carabinieri con dei sospetti fondati ed è stata sequestrata la caserma dei carabinieri di Piacenza con i sospetti fondati che da là di fatto gestissero un'attività di vero e proprio spaccio. Ora la procura indaga sulla catena di comando, ci fanno sapere Giuliano Foschini e Fabio Tonacci. Ne abbiamo già accennato ieri a quanti potrebbero aver voltato la testa dall'altra parte a fronte del maggior numero di arresti messo a segno dagli uomini di questa caserma. Repubblica, che a pagina 3 ci porta anche sulle testimonianze e sui racconti che emergono dalle carte. Ancora i due stessi autori del servizio vanno a Piacenza, in questo parco che si trova a 2 passi dalla caserma, un parco che, dove, come in tutti i parchi, ha dentro della gente normale che ci gira, quelli che corrono, bambini che giocano, e su qualche panchina ci sono anche delle persone, per così dire, sospette. E tra queste persone sospette ci sono persone che risultavano poi essere degli informatori / fornitori, così sospettano i magistrati, dei carabinieri arrestati. La caserma Levante era diventata un bancomat della droga. Lo sapeva Nikita, il trans di Via Torta. Un paio di pippate in cambio partecipava alle feste di Montella dei suoi amici. Lo sapeva Valeria, la russa che forse però è ucraina. Veniva a ritirare la sua dose, la terapia, la chiamava Montella, in cambio di una prestazione sessuale in Via Caccialupo, la sede della caserma, dove ora ci sono i sigilli, appunto. I carabinieri menavano anche senza motivo, raccontano i due giornalisti. Lo sa un ragazzo egiziano fermato l'8 aprile in via Pennazzi. La gente che abita racconta di non aver visto e sentito, ma le telecamere hanno ripreso tutto. Il ragazzo è stato fermato perché pensavano avesse comprato droga. Sbagliavano. Non aveva nemmeno un grammo di roba. Prima di lasciarlo andare però l'hanno picchiato e gli hanno rubato il portafoglio. In via Colombo, accanto a un negozio di telefoni, hanno acciuffato un ragazzo nigeriano, Anyanku Ugo Ciucu, piccolo spacciatore, era fine marzo, malmenato selvaggiamente. Quando ho visto quel sangue per terra ho detto «Mo l'abbiamo ucciso», racconta Montella ad un collega. No, era ancora vivo, ma per suggellare il momento l'ha puntato, scattò una fotografia che teneva nel telefonino come un trofeo. Il ragazzo per terra ammanettato e pieno di sangue. Il che ci porta anche oggi a una piccola nota, piccola ma nemmeno troppo, è un elemento da segnalare, alla vicenda del carcere di Torino, del quale già vi abbiamo parlato ieri. Sono già a Roma gli atti dell'inchiesta, siamo a pagina 9 della Stampa, la quale ci fa sapere che è pronto il commissariamento per il carcere di Torino. È un'inchiesta che da 3 giorni lo sta scuotendo l'istituto di pena. Sono indagati 21 agenti per tortura, ai vertici il direttore e il comandante della polizia penitenziaria per favoreggiamento di quella che è già stata ribattezzata una squadriglia di picchiatori. L'inchiesta conta 5.300 pagine di violenze, intercettazioni, annotazioni sui pestaggi che sarebbero avvenuti tra il 2017 e il 2018. Solo tra il 2017 e il 2018 saranno attentamente studiati dagli uomini del DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e si sta pensando appunto al commissariamento del carcere. Cosa ancora? Direi la questione dei migranti e del Covid, e qua rimaniamo sul quotidiano, anzi ritorniamo sul quotidiano La Repubblica, e siamo a pagina 11 per questa storia che sta generando la protesta di un pezzo della Basilicata. Perché? Perché negativi in Sicilia, positivi a Potenza. Il caso dei test sui migranti trasferiti. Qual è la storia? È che il certificato di negatività firmato dai medici di Lampedusa è del 13 luglio, ma 8 giorni dopo il tampone effettuato dall'azienda sanitaria provinciale di Potenza racconta un'altra storia che oggi rischia di far divampare un nuovo focolaio, quello della rivolta contro i trasferimenti nei centri di accoglienza di tutta Italia dei migranti che sbarcano sulle nostre coste. Dei 50 trasferiti in Basilicata, ben 26 sono risultati positivi ed erano in realtà negativi al test in Sicilia appena 8 giorni prima. Una spina nel fianco per la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, che ora proprio dal sindaco leghista della sua città, Mario Guarente, rischia di essere denunciata. Appunto Guarente dice: stiamo valutando denunce non solo nei confronti di chi lo ha materialmente effettuato, ma anche della ministra Lamorgese, che si è assunta la responsabilità di mandare in giro per l'Italia gente infetta. Questo il racconto che arriva da Potenza. Mentre invece il racconto che arriva dalla Liguria e ci arriva dal Sole 24 Ore e da Maurizio Caprino ci dice chiaramente che la vicenda autostrade è tutt'altro che chiusa. C'è una procedura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro Autostrade, il quale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dice in una lettera inviata, se non vado errato, eccolo qua, partita il 22 luglio dalla Direzione Vigilanza Concessioni Autostradali del MIT, che è rischioso il 95% dei tunnel della Liguria, il 95%, il tutto mentre si sta concludendo proprio in queste ore, e i nostri ascoltatori che sono sulle autostrade liguri tutti i giorni o anche solo saltuariamente lo sanno perfettamente, stanno concludendo in questi giorni le ispezioni. La contestazione di inadempimento appunto è partita, una procedura prevista dall'articolo 8 della convenzione Stato-ASPI attivata normalmente decine di volte all'anno nei confronti di tutte le concessionarie autostradali, ma stavolta i fatti contestati sono gravi e sono all'origine del caos negli ultimi mesi in Liguria, una situazione alla quale si è arrivati nel corso dei decenni e sulla quale ora si è alla ricerca di responsabilità. Ci sono dei difetti di costruzione? Secondo fonti ASPI, che sono alla base di circa il 90% dei problemi ora riscontrati. L'ago della bilancia si sposta al secondo l'interpretazione che si dà degli obblighi di ispezione trimestrale delle gallerie. Però qua c'è la contestazione che era arrivata, lo ricorderete, da Placido Migliorino, l'ispettore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha contestato il mancato smontaggio delle onduline di rivestimento ampiamente utilizzate per convogliare le infiltrazioni d'acqua nelle gallerie impermeabilizzate, prassi per decenni non richiesta esplicitamente, sulla quale ora tutte le parti in causa corrono a difendersi. Fatto sta che secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è rischioso o fuori norma il 95% dei tunnel liguri, e chissà, speriamo che questa lettera del 22 luglio non abbia nuove ulteriori conseguenze su quello che succede sulle autostrade liguri. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Buongiorno, Simone Spezia, dai, un ragazzo senegalese da Rimini che ti vuole molto bene e ti dico dai, buone ferie, ci mancherà molto la mattina. Grazie, ciao, buone ferie. Ma grande, caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua. Eccomi. Bene. Allora Paolo, io inizierei con te. Abbiamo nella prima parte della rassegna stampa riassunto un po' le ultime evoluzioni di cronaca sulla vicenda della caserma di Piacenza, dei carabinieri di Piacenza, e parlato anche del fatto che si sta indagando, che la procura si sta muovendo per vedere che cosa è successo all'interno della catena di comando. Però c'è anche un fronte che possiamo definire politico per certi versi, tutto il ragionamento su me le marce o non me le marce, no? Ecco, me le marce, merito di Ilaria Cucchi, che la sorella di Stefano Cucchi, come noto, con la fatica poi è venuto fuori che è stato ucciso, dice è un fatto enorme, gravissimo, stiamo parlando della caserma dei carabinieri in cui si viveva come in un episodio di Gomorra. Dice, ricorda la vicenda del mio fratello Stefano, bisogna andare fino in fondo, non si facciano sconti e basta parlare di mele marce. Che vuol dire questo discorso, basta parlare di mele marce? Vuol dire che sempre, quando succedono queste cose, si dice, lì quelli è un caso isolato. Anche oggi c'è un editoriale di Vittorio Fetti sul Libero, dice, non coinvolgiamo l'arma, ha ragione, nessuno vuole coinvolgere l'arma, però questo è un caso in cui le coperture, non è possibile che una cosa del genere, cioè una caserma in cui, ripeto, si viveva come in un episodio della serie Gomorra, fosse una cosa sconosciuta a tutti, si vedeva, erano carabinieri che andavano in giro con auto di lusso, facevano festini con prostitute dentro la caserma, immagino, sì. E vivevano foto con i soldi in mano, insomma vivevano in una maniera possibile che nessuno se ne sia accorto. Allora, se dovessi dare, c'è un articolo di Saviano su Repubblica che ben illustra punto per punto, nome per nome, tutta la questione, se dovessi dare un consiglio al comandante in capo dell'Arma dei Carabinieri, gli direi di comportarsi come fece Benedetto XVI quando vennero alla luce in modo inoppugnabile i casi di pedofilia nella Chiesa, soprattutto in quella americana. Cioè uno la prende e comincia a vedere i coinvolgimenti, perché non si può andare avanti continuando a dire sì, casi isolati, nessuno aveva visto. Qua è più importante chi aveva visto e ha taciuto di tutto il resto. E quanto all'aspetto politico che tu dici, è che le cose che dicono continuamente questi carabinieri malviventi, noi bastava che facessimo più arresti, sì, e tutti chiudevano un occhio, cioè noi arrestavamo. E anzi addirittura c'è il racconto di un tra le intercettazioni di un comandante provinciale, del comandante provinciale che incontra l'appuntato e gli chiede appunto di fare più arresti, esattamente questo. Sì, cioè loro dicono noi facciamo più arresti, e loro si vantano ridendo di arrestare anche in modo un po' largheggiando, diciamo, arresti, per questo citavo il camionista, uno malmenato che non aveva apparentemente grandi colpe, dice, loro quando sentivano una pressione che qualcuno metteva l'occhio nelle loro sporche faccende, arrestavano anche a Vambera e tutti quest'occhio lo chiudevano. E, insomma, è questo il fatto grave, più che la cosa in sé, che già è gravissima di per sé. Ed è anche ovviamente questo uno snodo politico. Verrei proprio alla politica, Paolo, che ancora una volta si concentra sul tema del recovery fund e dell'utilizzo del MES da Gualtieri, che sul Sole 24 ore, l'apertura, no? Dice senza MES tensioni di cassa. A Gentiloni, che su Repubblica dice prendete il fondo salva stati, che i fondi europei arrivano a metà dell'anno prossimo. Insomma, risale la pressione sul Presidente del Consiglio sotto tanti fronti. Sì, sembravamo in festa fino a ieri mattina, sembrava standing ovation alla Camera, al Senato, perché era tornato vincitore. E così è ripresa come prima, in realtà. Insomma, sì, abbiamo tenuto un impegno, perché adesso questi 209 miliardi non è che sono arrivati nelle casse dello Stato. Un impegno a cui l'Europa tra l'altro sta mettendo giorno dopo giorno condizioni, si capisce che mette ogni giorno un nuovo vincolo, comunque arriveranno, non voglio dubitare che arrivino 209 miliardi. Intanto qua è scoppiata l'ira di Dio, chi li ha, innanzitutto la cosa che dici tu, il MES, è semplice, sì. Dire, ma dite una parola chiara, è stato al governo. Però lo sai che politicamente è troppo difficile, Paolo, per loro. Sì, ma adesso già al Parlamento europeo votano insieme Lega e 5 Stelle contro il MES. Insomma, è una questione da chiarire. Allora stiano zitti, perché non si può andare avanti. Anche Zingaretti, che è il capo del PD, oggi il Foglio fa un grandissimo elogio di Zingaretti, dicendo un capo meglio, però nel titolo lo chiama Sleepy Zinga, dormiente Zingaretti, quindi gli fa un grande articolo di complimenti, però Sleepy Zinga, o non lo dici o se lo dici lo esigi, perché non è che il partito di governo può andare avanti che tutti i giorni dice senza il MES non si procede, anche Gualtieri, e allora pongono la questione, se no scocciano. Io adesso noi smettiamo di fare questa rassegna e non gli daremo il tormentone. Però speriamo che il 31 agosto di trovarci con una decisione. Il 31 agosto ritrova la sigla MES nei titoli del giornale, stacco subito, passiamo di nuovo a parlare della caserma di Piacenza, che almeno è una cosa un po' nuova. Sì. Comunque uno dei grandi tormentoni insieme a E ora le riforme, insieme ora al grande maestro. A proposito di ora le riforme, non si capisce bene chi le deve fare, chi deve amministrare questi soldi, se quando verranno, grande discussione, una task force, anche quando vedo comparire la parola task force metto mano alla pistola, oppure una commissione interparlamentare, una seduta in agosto del Parlamento. Mi sembra che una commissione bicamerale, non so se magari ti è sfuggita. Qualcuno dice anche una camera sola, però per questo non ho bisogno. Comunque è una cosa ridicola, davvero ridicola. Arriva, è come se l'Italia negli anni 50, ai tempi del piano Marshall, fosse divisa su quale era il modo, se con dei consiglieri tecnici. Io non dirò mai la parola buffonata, però non la dico. Vorrei soffermarmi rapidamente con te, Paolo, su una storia che mi ha incuriosito e che ho trovato a pagina 16 della Repubblica. La racconta Giampaolo Cadalanu, arriva da Berlino, ed è la storia di una condanna. Ogni tanto arrivano le condanne, sì, che la vediamo. Bruno Dei, sì, un ex guardia dell'SS. La cosa buffa di questa condanna è arrivata ieri, condannato ovviamente, cioè ha 93 anni, ma che è una condanna che viene da un tribunale dei minori. Perché da un tribunale dei minori? Perché questo Bruno Dei aveva 17 anni quando faceva il guardiano di campo di concentramento, è responsabile sicuramente di migliaia, sottolineo migliaia di morti, però gli stessi denuncianti, la parte offesa, hanno chiesto clemenza perché non vogliono mandare uno in galera ha 93 anni, per cui hanno fatto un compromesso all'italiana, è stato sì condannato per 2 anni, mi sembra, sì, con il beneficio di sospensione della pena, anche se c'è stata una tempesta, perché poi è stata commentata questa condanna lieve, perché sì, se tu c'è, devi condannare uno per reati così gravi, non gli dai 2 anni con sospensione della pena. Insomma, è una delle difficoltà dei processi, un tribunale dei minori che si trova all'improvviso a dover condannare un caso di un uomo di 93 anni. Questo è il traffico. Ci ritroviamo subito dopo, un po' di cronache da Covid e non solo, Mattino. La questione Covid, tutti i giornali riportano dell'incremento di casi, anche se non c'è un grande incremento né di ricoverati né di persone in terapia intensiva, e questo va detto sempre, però un po' di cronache, Paolo, si trovano in giro, a partire da quella di Capri, che Capri fa impressione, perché Capri non ne aveva praticamente di Covid. Sono andati 3 giovani romani, tornati da Capri, hanno scoperto di essere stati contagiati, e quindi è scattato l'allarme. Il sindaco di Capri ha detto che dovete portare tutte le mascherine in piazzetta, insomma la portano in pochi, ho visto le foto, e in piazzetta i faraglioni non vanno in giro in mascherina, però anche qui allarme per la cosa del Covid, perché in tutti i paesi, come in Catalogna dove è riscoppiata in questo modo. In Italia sembra che nessuno se ne voglia rendere conto, sembra che tutti pensino che sia stata una grande carnevalata questo del Covid, e che tutto sommato dall'Italia è scomparsa e via. Sì. Però la cosa che ha fatto, visto che ci troviamo a Capri, andiamo in terraferma, la cosa che ha fatto più rumore è stata questa dichiarazione ennesima di De Luca contro la Lombardia, di fatto. Dice, quelli dicevano Milano non si ferma, così Bergamo e Brescia, poi si sono fermati a contare i decessi. Sì. A cielo, come dire, voi fate così i ganassa, dite qua non ci fermiamo, lavoriamo e rispettate noi. Però ha fatto una cosa interessante il Corriere della Sera, che con Fiorenza Sardanini è andata a guardare cosa è esattamente successa in Campania. Dice, ultima in Italia per i test, la Campania è prima tra le regioni del sud per crescita dei contagi. I dati, solo 217 tamponi ogni 100.000 abitanti. Questa non per dare addosso a De Luca, ma anche forse per spiegare perché De Luca è così allarmato. Ovviamente raccontano gli articoli di giornale, perché tutti danno grande spazio a questa vicenda. Maria Teresa Melli sul Corriere della Sera, sì, racconta che il PD è imbarazzatissimo per queste continue dichiarazioni bomba di De Luca, però siccome le elezioni sono vicine e non può dire niente, in sostanza non può dire niente. Ovviamente chi si scatena è Salvini e la Meloni, sì, si scatenano contro De Luca, meno Berlusconi è più timido in questi giorni, sì, te lo segnalo praticamente, perché oggi sono 2 titoli su Berlusconi. Esatto, pensa, ti volevo portare proprio su quello, su Il Giornale da una parte e Il Fatto Quotidiano, bravo, dall'altra, no? Perché hanno un significato. Allora, Il Fatto lo accusa di essere un manutengolo dei Graviano, adesso io esagero in sintesi. Il Giornale dice, ma adesso è chiaro che tutte le prove contro Berlusconi erano fabbricate, comunque manipolate, bisogna dichiararlo innocente, questo leggendo tra le righe. Che cosa significa? Che sono tutte e due delle cose che possono, sottolinea, possono essere elette anche politicamente. Berlusconi è come se dicesse, sentite, io do una mano a questo governo, però sia chiaro che la finite una volta per tutte con gli scherzetti giudiziari e mi date un colpo di spugna sulle mie vicende giudiziarie. Il Fatto dice, manco per niente, tu statene dove stai, perché sei un simil mafioso e noi con essere come te non vogliamo avere nulla a che fare. E in gioco, sì, ci sono i voti che al momento opportuno, i voti berlusconiani, che dovrebbero sorreggere il governo Conte o un governo di transizione. Il Fatto, sì, dice, no, la maggioranza deve, tra le righe, è una mia libera interpretazione, sì, dice, tra le righe, teniamoci, beh, la maggioranza che abbiamo e non Sì, è una tua libera interpretazione, Paolo, però il fatto che Berlusconi sia così al centro della scena, insomma, qualche un po' certo. di sospetti li solleva. Ma tu sei sospettoso. Io sono, adesso... sono è così. Paolo, ti voglio portare su dei silenzi che vengono rotti e inizierei da Roberto Burioni che è clamoroso. Aveva detto sto zitto. Aveva giurato che sarebbe stato zitto fino all'autunno e invece ieri ha sparato a zero, ha fatto una dichiarazione anche bella lunga contro tutti quelli che dicono, appunto, come dicevo prima, io il virus è scomparso, c'è là tra le righe con una manifestazione che è organizzata per lunedì prossimo, lunedì 27 sì. luglio in Senato, lui non la cita, di una sorta di armata fatta da scienziati, Vittorio Sgarbi, Salvini. Sì, cioè, ci sono alcuni, ce ne sono alcuni che sono scienziati per modo di dire là in mezzo. Io non lo dico. Novax e simili. Quindi... Sì, e per, insomma, sono tutti quelli che dicono che bisogna riprendere a vivere così e che è stata tutta una montatura. E lui dice attenti e dà dei dati interessanti, però quello che incuriosisce è quello che ha incuriosito anche te, cioè sì. nessuno in Italia mantiene mai un impegno, ma soprattutto non si mantiene mai un impegno a stare in silenzio. Non lo fanno nemmeno, e lo sai benissimo, le tue amate sardine, perché noi adesso andiamo in ferie, andiamo in vacanza, ci fermiamo, ma io so che tu lo fai fondamentalmente per poter seguire questo grande tour delle sardine che inizia, il tour estivo delle sardine. L'ho visto, tour estivo con Provenzano, Ruotolo e Sumahoro. Sì. E vanno in tutte le regioni e portano il loro messaggio. Ce n'è una intelligente, Jasmine Cristallo, che si rende conto che anche loro mancano una promessa. Hanno detto state zitti e staremo zitti, dice, infatti gli domanda l'intervistatore. E la lettera di Santori che annunciava una pausa di riflessione, lei dice è stato un errore, non avrebbe dovuto essere pubblicata. Si trattava di un confronto interno di idee, siamo vivi e non ci siamo mai fermati. È un linguaggio anche un po' della politica, comunque sì. Io non credo che mancherò neanche a uno di questi. Certamente la grande, perché sei il Richelieu delle sardine, come noi sappiamo, l'uomo, la grande, l'ombra dietro le sardine. Io penso che con l'appoggio delle sardine riuscirò ad arrivare a essere Presidente della Repubblica. Ad ascendere al Quirinale. Non devo perdere però l'appoggio delle sardine, ammesso che l'abbia, loro non me l'hanno mai detto, però come dice Jasmine Cristallo ci sono delle discussioni interne. E prima o poi magari uscirà una loro designazione. Comunque, arriverà. Per non saperne leggere e scrivere, visto che in agosto non abbiamo Radio 24, andiamo a braccio alle sardine. Sicuramente. Poi ci ritroviamo il 31 agosto, dove ripartirà la grande campagna per portare Paolo Mieli al Quirinale. Caro Paolo, grazie per questa stagione. Ci ritroviamo a settembre. Il 31 agosto ci sentiamo. Grazie a tutti voi. Bene. Grazie Paolo Mieli. Noi ci fermiamo. C'è GR24. Ci ritroviamo tra poco con Maria Latella, i nostri ospiti. Ci sarà il sottosegretario alla difesa per parlare di questa vicenda dei carabinieri. Ci sarà Davide Oldani per parlare un po' dei ristoranti, questa fase di crisi, di Covid e non solo, e poi chiuderemo con un piccolo montaggio, sono 3 minuti di alcune delle cose migliori di quest'anno o che ci hanno divertiti di più. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.